Formigine 26 maggio 2012. L'esistenza di un essere umano si svolge su due binari paralleli, il rapporto fisico e il rapporto verbale. Il rapporto fisico inizia fin dal concepimento, per poi continuare durante l'allattamento e, in seguito, nel contatto fatto di abbracci e carezze con i genitori. Poi ci sono le strette di mano con il prossimo, gli abbracci affettuosi, i baci da innamorati, per arrivare poi alla suprema fra le relazioni fisiche, il rapporto sessuale. Le relazioni verbali in genere iniziano con i primi vagiti, per poi arrivare a esprimersi con parole sensate, sia di incoraggiamento, sia dure e offensive. È vero che il rapporto sessuale è ritenuto uno degli incontri più significativi della vita, ma anche se, a prima vista, non sembra, l'intensità del rapporto verbale è tale da riuscire a sconvolgere in positivo o in negativo l'intera esistenza dell'essere umano. Conservo ancora nel cuore un breve scritto dell'ex cappellano del Senato degli Stati Uniti d'America, Richard C. Halverson, dove si dichiara: «Potete esporre le vostre idee agli altri come pallottole o come semi. Potete spararle oppure seminarle, colpire con esse la testa delle persone o piantarle nei loro cuori. Le idee usate come pallottole uccidono l'ispirazione e tolgono motivazione. Usate come semi, mettono radici, crescono e diventano una realtà nella vita di colui nel quale sono seminate». C. È un unico rischio nell'usare le idee come semi. Una volta che un'idea è cresciuta ed è diventata parte di colui nel quale è stata seminata, non vi sarà riconosciuto alcunché di esserne stato l'origine. Ma se non vi interessa prendervi il merito, mieterete un ricco raccolto. Quanto è vera questa verità, sia perché abbiamo ricevuto o anche dato delle fucilate verbali, sia perché ci siamo nutriti spesso di sane parole, seminate nel corso di tutta la storia umana. E poiché nessuno di noi vuole sparare parole con il desiderio di far del male agli altri, la domanda che sorge è: come posso distinguere quando le mie parole uccidono e da quando seminano? Posso essere profondamente convinto di aver usato parole come semi, mentre invece ho sparato una cannonata, o anche il contrario. Posso pensare di aver detto una frase come una fucilata, mentre in realtà ho semplicemente seminato. È possibile avere un serio e valido aiuto per risolvere questo importante interrogativo, che mi permette di avere una giusta relazione con il prossimo? Domanda non da poco, perché una delle maggiori sofferenze dell'umanità sta proprio nella mancanza di una relazione umana verbale sana e costruttiva. Ancora una volta la Bibbia, questo libro ritenuto antico e sorpassato, ha una risposta in merito da più di 2000 anni e, precisamente, in una sola parola: grazia. Questa parola, assieme alle parole fede, amore, speranza, costituisce l'anima del cristianesimo, solo che non è sempre presa in giusta considerazione. La parola grazia è la traduzione del termine greco charis, il quale a sua volta deriva da un prefisso, char, che significa tutto ciò che produce benessere. Quando si legge nei Vangeli che Gesù era pieno di grazia, si vuole affermare che Gesù nel suo parlare e agire produceva solo del benessere. Mentre nella lingua italiana la parola grazia è vista in relazione al modo di agire, comportarsi con grazia, nel greco l'enfasi cade su quello essa che produce. Così, quando leggiamo nella parola di Dio che il cristiano deve parlare sempre con grazia, la volontà di Dio, non è che il suo comportamento sia sempre conforme ai canoni sociali, altrimenti Gesù avrebbe sbagliato quando con delle cordicelle scacciò coloro che vendevano gli animali nel Tempio, ma piuttosto che il suo modo di parlare deve sempre produrre del bene in chi ascolta. In definitiva, non pallottole ma semi, non uccisioni ma vita, non malessere ma benessere. Compreso questo principio, però, abbiamo risposto al nostro interrogativo solo per metà, perché un'altra domanda sorge: quando veramente produco benessere, quando le mie intenzioni sono tali? Purtroppo no. Si possono avere le più grandi intenzioni di aiutare il prossimo e comunque fargli del male. Nutrire buone intenzioni di aiutare il prossimo, desiderare di fargli evitare affanni e sofferenze, è la normale tendenza di chi ha un cuore e una mente sana, al punto che non solo questo nobile sentimento si trova in me, ma pure era nutrito dagli apostoli Paolo e Pietro. Quando Paolo scrisse la sua prima lettera ai credenti di Corinto, rispondendo a delle domande in merito alla vita matrimoniale e all'eventualità di far maritare le vergini, vista la pesante situazione prospettatasi per i cristiani contemporanei, fece questa confidenza personale: e se una vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne, ora io vorrei risparmiarvi ciò. 1 Corinzi 7:28. Anche quando espresse la prospettiva di andare a visitarli, che ai suoi tempi viaggiare era molto più difficile, dovette dire: ora io chiamo Dio come testimone sulla mia stessa vita che, per risparmiarvi, non sono ancora venuto a Corinto. 2 Corinzi 1:23. Dunque, è normale e umano volere che il prossimo non soffra, al punto che possiamo cambiare il nostro comportamento e le nostre parole, pur di risparmiare sofferenze a chi ci ascolta. Ma è proprio un bene. Purtroppo, il desiderio di evitare sofferenze al prossimo è spesso la più grossa trappola e il più grosso danno che possiamo fare. Addirittura ci si può mettere contro Dio. Forse questo è molto difficile da accettare, ma il comportamento dell'apostolo Pietro e la risposta di Gesù devono togliere ogni dubbio. Così leggiamo nel Vangelo di Matteo. Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Matteo 16, 21-23. Nessuno può mettere in dubbio l'affetto che Pietro nutriva per Gesù, testimoniato anche dall'affermazione accurata che se tutti l'avessero abbandonato lui non lo avrebbe mai fatto. Ma questo suo grande e nobile volontà di evitare a Gesù le necessarie sofferenze è stata ritenuta dal suo maestro un atteggiamento sentimentale, dettato da Satana, cioè da un avversario. Un episodio che fa riflettere: quante volte, mosso da un nobile sentimento umano proveniente da Dio, ma purtroppo corrotto, ho voluto evitare al prossimo affanni e sofferenze. È normale, quando poi ti trovi in una posizione di maggiore esperienza coniugata ad un'età riguardevole come la posizione di padre o nonno, o proveniente dall'aver vissuto 40 o 50 anni di vita cristiana rispetto al neofita, va da sé che non puoi rimanere indifferente nel vedere scelte sbagliate. Sarebbe crudele rimanere insensibile. Ma non è pure giusto volere a tutti i costi che la persona non soffra. Ho visto scene, e chissà quante volte l'ho fatto anch'io, dove un genitore, un nonno, facevano più danno ai loro figli o nipoti, con accondiscendenze provenienti dal vincolo affettivo che li legava, di quanto ne avrebbe provocati l'averli lasciati patire un po'. La sofferenza non ci piace, e non piace procurarla. Questo è il nostro vero problema nelle relazioni umane. Nessuno vuole uccidere, né con le parole né con i fatti. A tutti piace seminare, perché non crea problemi, ma ci sono momenti che bisogna fare soffrire. Sta scritto nell'eterna parola di Dio: fedeli sono le ferite di un amico, ma ingannevoli sono i baci di un nemico. Perciò si può procurare del male al prossimo nel fargli del bene, anche se queste parole sembrano delle pallottole, e si può fargli del bene nel farlo soffrire. Di conseguenza le pallottole non sono quelle che colpiscono e fanno soffrire, ma quelle che fanno soffrire senza procurare guarigione. La parola di Dio mi ha corretto in merito a questa mia inclinazione sbagliata a voler evitare al prossimo angustie e dolori. L'apostolo Paolo, nella sua lettera ai credenti di Roma, esponendo loro l'argomento della giustificazione che ottiene chi pone fede in Cristo, ha dichiarato di considerarla come un vanto, aggiungendo subito dopo: e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza e l'esperienza speranza. Dunque, l'afflizione non è più una nemica da evitare a tutti i costi, né è una situazione da voler fare evitare agli altri, soprattutto a chi si ama, perché è proprio tramite l'afflizione che si impara la perseveranza, e tramite la perseveranza si sperimenta la conoscenza della buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Tutto questo produce poi un grandissimo e smisurato desiderio della presenza di Cristo, una presenza celeste di totale assenza dalla sofferenza. Se la sofferenza produce questo, se ci crediamo veramente, chi di noi cercherebbe per se stesso e per gli altri una immediata liberazione dalle angustie? Non è forse vero che nelle nostre preghiere le maggiori attenzioni sono rivolte alle nostre tribolazioni, alle nostre o altrui malattie, sebbene abbiamo constatato che il sangue dei martiri è il seme della Chiesa, e quando i cristiani in difficoltà testimoniano che la Chiesa aumenta di numero, quando aumentano il numero delle persecuzioni? L'Apostolo Paolo ha lasciato una bellissima testimonianza che deve farci riflettere nell'attestare di avere una spina nella carne. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole allora sono forte». 1 Corinzi 12, 8, 10. Queste parole sono come un seme, se credute portano il loro frutto nella nostra vita. Vantarsi delle sofferenze per mostrare la potenza di Dio. Non solo, nel partecipare alle sofferenze di Cristo, si è partecipi della consolazione di Dio, e sperimentandola, si è in grado di consolare altri che soffrono. 2 Corinzi 1, 1-11. Spesso, le pallottole che uccidono sono parole e concetti che non mettiamo in pratica, sono verità bugiarde, cioè verità, per appoggiare una menzogna. Sono queste che rovinano i rapporti umani. Cerchiamo dunque il vero bene del prossimo, seminando le parole. Si semina quando si dice la verità, si dice la verità quando si edifica il prossimo, si edifica il prossimo quando non si intralciano i piani di Dio. E dato che non siamo onniscienti, lasciamo a Dio il giusto compito di far soffrire. Come disse Pietro, è il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. A lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Ellero,